Nonno, catene, ma solo piange il cuor lontano da te. Io, nonno, catene, perché so che il tuo amor è sol per me. E so che un dì io ti rivedrò, ti stringerò ancor. Guardo il cielo e so dove sei, cosa fai e dovunque andrai io sentirai i sospiri miei che per te, sol per te parlano.